Questo è lo spazio cinema su Radio Onda Rossa con interviste su film, festival e rassegne in forma registrata. Ogni giovedì dalle ore 14 l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Il silenzio dell'isolamento è uno dei protagonisti del film di Alvaro Breckner, Una notte di 12 anni, che sarà in sala da dopodomani, giovedì 10 di gennaio 2019. Alvaro, ben trovato. Grazie di essere qui e complimenti per il film. Muchas gracias, muchísimas gracias, un placer estar aquí. Grazie mille, è un piacere essere qui. Allora, come ti dicevo prima, mi piacerebbe il tuo punto di vista nella presentazione del film. Per chi ci ascolta, come lo presenteresti? Yo creo una película siempre es muchas cosas, ¿no? Pero esta específicamente está, es una película basada en hechos reales, en hechos bastante en sí dramáticos de un pasado reciente que sucedió en Uruguay, en el país en donde yo nací, que son parte en sí de un momento entre 1973 y 1985. Uruguay sufrió una dictadura tremenda. Uruguay es un país con una tradición democrática muy fuerte, pero producto de un poco, bueno, todo lo que sabemos en sí, la historia de la locura de post año, década del 60, del 60 y 70, tuvimos una dictadura durante esos 12 años, en los que dentro de esa dictadura hubo tres individuos, que en realidad eran nueve, pero estaban separados, es un grupo de tres, que fueron aislados durante 12 años de todo aquello que los constituía como individuos. Sí, un film es siempre un insieme di tante cose. Questo film en particolare è basato su degli eventi reali, su un passato recente e drammatico che del mio paese, l'Uruguay, il paese dove sono nato, perché negli anni tra il 73 e l'85 ha vissuto e ha conosciuto una dittatura terribile. L'Uruguay, il mio paese, ha una forte tradizione democratica, però a seguito di una certa follia degli anni 60-70 si è instaurata questa dittatura in quel periodo, e in quel periodo tre persone che facevano parte di un gruppo di nove, ma queste tre persone sono state messe isolate da parte, hanno vissuto questi 12 anni in un isolamento totale da tutti gli elementi che costituiscono un essere umano. Fueron sometidos de alguna forma a una condena, lo que la consigna militar en sí decía, debimos haberlos matado en su momento, ahora vamos a burlarlos locos. Y a mí lo que más me interesó en sí era todo este dilema existencial interno de cómo hace un individuo para mantenerse hombre aún en las peores circunstancias. ¿Cuáles son esos reductos inalienables de libertad que cada individuo posee? ¿Y cómo hicieron estos hombres para primero sobrevivir a nivel general? Hoy sabemos que duró 12 años, porque Uruguay vuelve a la democracia en el 85, y hoy sabemos que tres de estos individuos, uno terminó siendo presidente, como José Mujica, pero otro ministro de defensa como Huidobro, y otro un gran escritor como Rosenkopf. Pero en ese entonces era una condena que ellos no sabían cuánto iba a durar. Era una condena kafkiana, en donde no podían ver la luz, no sabían si hoy, el hoy se confundía con el ayer, el sueño con estar despierto, si iba básicamente porque comenzaban un tiempo que ya no era más lineal, se tenían que reinventar a sí mismos. Era un pasaje por un infierno interno, un infierno mental que buscaba de alguna forma destruir su yo más íntimo. Y a mí me pareció fascinante ver cómo un hombre se enfrenta a circunstancias tan tremendas, cómo hace para sobrevivirlo y cómo hace para reinventarse a través de ello, qué queda de ello. Sí, quindi hanno vissuto una condanna terribile, infatti la consegna militare era avremmo dovuto ucciderli e invece li faremo impazzire. Quindi quello che mi interessava di questa storia era il dilemma esistenziale, come fa un uomo a mantenersi tale, quali sono le vie o i percorsi di libertà che tutti gli esseri umani possiedono, a che tipo consentono di restare uomo e di mantenere la tua dignità. e come hanno fatto a sopravvivere, perché oggi noi sappiamo che la dittatura ha avuto fine, poi nell'85 è terminata, però allora quegli uomini, Mujica che poi è diventato presidente dell'Uruguay, e Huidobro che è diventato ministro della difesa, e Rosenkopf che è scrittore, non sapevano quando questa loro condanna sarebbe finita, quanto a lungo sarebbe durata la dittatura, e vivevano in una situazione di condanna kafkiana, dove l'oggi si confondeva con il ieri, vivevano senza la luce, dove i sogni, il sonno si confondeva con la vita della veglia, e quindi hanno dovuto trovare un modo per reinventarsi, vivendo un inferno mentale che avrebbe potuto distruggere la loro persona, il loro io più intimo e profondo. Quindi la domanda era come si affrontano queste situazioni, come si fa a sopravvivere, come si fa a non distruggere il proprio io più profondo. Mm-hmm. Alvaro, una doppia domanda: come è nato il progetto film e come lo hai scritto? Ti sei basato su una documentazione loro o incontrando, anche parlando con loro? Ambas cosas. Lo primero es que, como es un hecho, hay un libro que dos de ellos, Huidobro y Rosenkopf, escribieron 2 años después de salir de esta cárcel, que era, como digo, ellos estaban en la cárcel, fue una segunda, es complicado explicar porque hay cierto de ámbito casi kafkiano que es difícil de entender. Ellos estaban en una cárcel y fueron secuestrados, tomados como rehenes, a esta segunda condena, que era más propia de un círculo del infierno de Dante. Pero en este libro, que se llama Memorias del Calabozo, ellos 2 años después de salir contaron, es un libro de grabaciones en donde ellos cuentan todo lo que fue en sí su experiencia, dejan testimonio. Lo que pasa es que a partir de ahí yo lo que hice fue recurrir a las fuentes vivas. Dado que tenía la suerte de que los tres estaban vivos, nos empezamos a juntar con Mujica, con Huidobro, con Rosenkopf, a que me contasen. Y así estuvimos casi 3-4 años. Yo me reuní no solo con ellos, sino con otros supervivientes, con militares, con políticos, historiadores, pero también con neurólogos, con psicólogos, para tratar de entender cómo funciona el cerebro de un individuo ante la falta de estímulos. Porque cuando tú estás en esas celdas, yo pude verlas nada más, yo fui a visitarlas, quería sentirlas, y son celdas que tú no puedes estirar los brazos, llegas a una pared con la otra, o sea, es menos de 1.5 metros, no tienen una ventana. Entonces tú, después de 1 hora, 5 horas, 1 día, el individuo empieza a perder todo lo que son los sentidos, empiezas a perder la noción de tiempo, empezás a perder la noción de espacio, todos tus sentidos empiezan a disminuir y el cerebro desesperadamente los empieza a crear. Entonces había algo de un trabajo casi neurológico, de tratar de entender cómo hace el individuo para sobrellevar una situación tal. Entonces, más allá de todos los testimonios que tuve de ellos, también había todo un trabajo casi científico a la vez de para aproximarnos a dentro de la humildad que implica lo cinematográfico frente a una experiencia así de real. Pues porque la experiencia de ellos, cuando ellos te contaban, yo estuve, no sé, 15 veces reunido con Mujica, 30 con Rosenkopf, cada vez que te contaban cosas que les había pasado, se acercaba más a la lógica de la pesadilla que a la lógica de la realidad que entendemos como tal. Porque todo se mezcla, porque no hay tiempo ya, porque es la posthumanización, porque es la pérdida del lenguaje. Como no podían hablar, estar 12 años sin hablar, tú no sos capaz de darle un sentido, una narrativa a tu vida. No puedes dar una narrativa a tu hoy y te es hasta difícil dar una narrativa a tu futuro. Paro porque perdón mis oyentes que no entienden el español. Sì, allora, ho messo insieme le due cose. Huidobro e Rosenkopf, 2 anni dopo essere usciti da questa esperienza, e hanno scritto un libro insieme ed è stata come una seconda discesa agli inferi. Comunque questo libro si chiama Memoria del Calavosso, e dove hanno voluto rendere e lasciare una testimonianza dell'esperienza vissuta. Però oltre a questo libro io ho voluto fare ricorso a delle fonti vive, avendo la fortuna di poter contare su delle persone che erano ancora lì, ancora vive. Mi sono li ho incontrati molte volte, tutti e tre. E però non soltanto loro, ho voluto parlare anche con storici, con i militari, ma anche con i neurologi, con gli psicologi, perché quello che ci interessava era anche vedere come reagisce l'essere umano nella totale assenza di stimoli esterni, perché io sono stato lì in quelle celle dove loro sono stati detenuti ed è un'esperienza, sono stato per pochissimo tempo, ma non potevi neanche allargare le braccia perché toccavi le pareti, non c'erano finestre, quindi dopo un'ora, dopo cinque ore, dopo una giornata che stai lì, l'individuo perde la nozione del tempo, dello spazio, e quando è in questa totale carenza di stimoli il cervello comincia a crearne di altri. Quindi il lavoro, abbiamo fatto un grosso lavoro con i neurologi proprio per capire come fa un individuo a sopravvivere e a reagire. E quindi oltre alle loro testimonianze, abbiamo ascoltato le loro testimonianze, abbiamo cercato anche con molta umiltà di renderle da un punto di vista cinematografico, perché quello che loro ci raccontavano, io magari avrò incontrato Mujica 15 volte, Rosenkopf altre 30, però quello che raccontavano non era più la logica della realtà, ma era una logica da incubo, era una logica della post-umanità, era esseri umani che hanno perso l'uso della lingua perché non parlavano con nessuno. E quindi come fai una volta che non parli più, quando non hai più una narrativa per raccontare l'oggi, non riesci neanche a raccontare il futuro? Ecco, che impressione hai ricavato da questa vicenda storica e anche dalla frequentazione di queste tre persone? Para mí fue una de las grandes recompensas, de las grandes satisfacciones de poder hacer cine. Yo creo que como director uno hace cine, yo al menos es realmente por explorar la condición humana. Y esta para mí planteaba una de las cosas más esenciales y tremendas y brutales. Sobre todo considerando que estos individuos salieron y tuvieron una resiliencia insólita, con una carencia de odio, sino que se concentraron en ver el futuro. Digo, porque eso no es fácil, no quedar prisionero en sí del odio. ¿Cómo hicieron para esa experiencia así de traumática transformarla en algo positivo? De hecho, es una de las cosas que con Mujica mucho hablamos, o sea, acerca de cómo esos 12 años de aislamiento, con todos sus modelos, su forma de ver el mundo en sí. Claro, Mujica es un hombre que cuando es presidente de Uruguay no se va al Palacio Presidencial, se queda en su casa. Él vive realmente como un hombre, bueno, en un lugar carente de cualquier tipo de lujo, de nada. O sea, es decir, y básicamente él dice, yo vivo en un palacio. Que claro, después de estos 12 años que vivió, él aprendió a vivir. Él dice, fueron los 12 años más terribles de mi vida, pero fueron los 12 años que más aprendí de mí mismo. De hecho, la primera vez que me junté con Mujica, una de las cosas que me dijo y más me impactó, me dijo, yo hay veces que extraño el calabozo. Y yo quedé en shock, yo quedé temblando. O sea, me dice, ¿cómo? Y él era presidente todavía, me dice, porque yo nunca tuve tanto tiempo para ser yo mismo. Y de golpe es como comprendés la brutal capacidad en sí de lo que es la voluntad del espíritu humano, que nunca lo debemos subestimar. Y que es verdad eso, que es como que nadie sabe lo fuerte que es hasta que ser fuerte es la única opción que te queda. Sí, questa è la grande ricompensa che ti viene dal fare il cinema. Io faccio cinema almeno per poter esplorare e indagare la condizione umana, e questo film mi ha offerto tantissimo materiale, capire anche perché sono persone che sono uscite da quella condizione, persone che hanno dato prova di enorme resilienza e poi soprattutto sono usciti da lì senza odio, ma piuttosto concentrati sulla visione del loro futuro. Perché è molto facile in queste circostanze alimentare e coltivare l'odio, ma come la domanda era anche come avevano potuto trasformare questa loro esperienza in qualcosa di positivo, ed è una cosa che con Mujica ne abbiamo parlato tantissimo. Lui l'uomo che è uscito da quei 12 anni, anche come presidente dell'Uruguay, lui non viveva a palazzo ma viveva a casa sua senza alcuna forma di lusso, eppure lui diceva: io vivo in un palazzo, perché ovviamente dopo tutta l'esperienza di quei 12 anni per lui era come un palazzo. E la cosa che diceva e che mi colpiva era che in quei 12 anni sono stati i 12 anni più duri della sua vita, ma anche quelli in cui ha più imparato a conoscere se stesso. E la cosa che veramente mi colpiva e mi faceva quasi tremare era che mi diceva: a volte io rimpiango la cella, perché mai come in quel periodo ho avuto tanto tempo per essere me stesso. E quindi questo mi ha fatto molto riflettere sulla capacità dello spirito umano di resistenza, di non dover mai sottovalutare. Non riusciamo mai a conoscere veramente di quanta forza disponiamo se non siamo messi in condizioni estreme. Hay algo que aparte que de la experiencia en sí con ellos, me ha pasado en sí con público. Bueno, más allá de lo que fue en el Festival de Venecia, la reacción de público, me ha pasado muchísimo al lado. De hecho, ha pasado en cines normales, en muchísimos países, de que la gente termina y es griterío. En Brasil justo pasó por la situación tremenda, la situación política que hay. Pero me pasó una cosa hace un mes bastante insólita, al menos a mí, que yo nunca había vivido algo así. En Egipto, estábamos en el Festival del Cairo, que de hecho la película ganó todos los premios, ganó el premio del público, de jurado, de críticos, pero en el pase del público fue un aplauso atronador, tremendo, yo tenía que ir a hacer unas preguntas y respuestas, un Q&A, y en determinado momento una señora con velo, como casi todas, empieza a gritar desde la última fila: gracias, gracias, gracias. Y era un grito desesperado, de estos llorando, agitado, en el medio del Q&A, y la escuchaba gritar: gracias por darnos esperanza. Tú no sabes lo que has hecho por nosotros. Esto en inglés, ¿no? You don't know what you did for us. Y de golpe es como que había un grado que te das cuenta de los reductos inalienables que hay en sociedades aún así oprimidas, pero reductos de libertad que no se le pueden quitar a los individuos. Y para mí eso es algo wow, que es como que es una experiencia que pase eso en una sala cinematográfica. Me explico más, porque mi objetivo nunca fue ir solo a los eventos, sino poder tratar de transmitir esa lucha interna que se genera, tratar de interpretar esa lucha interna que se genera dentro del individuo. Cuando pasa eso es un grado de satisfacción o de emoción o golpe, porque contactás con dilemas profundos que se están debatiendo hoy en día, y no puntualmente en Uruguay, sino en muchos lados del mundo, sobre la relación de el individuo y sus sociedades, las sociedades que hemos creado, y dependiendo dónde. Una cosa es en Europa, otra cosa igual es en Asia o en Medio Oriente o en Sudamérica o dependiendo dónde, pero que entroncan con cosas y con dudas y con miedos que afrontan al ser humano hoy. Sì, quello che mi piace a me è il rapporto con il pubblico, la reazione, non soltanto ad esempio quella reazione che c'è stata al Festival di Venezia, ma mi piace vedere quello che avviene nei cinema normali, le reazioni della gente, ad esempio anche in Brasile, perché il film è uscito durante nel periodo delle elezioni. E un'esperienza per me molto insolita è stata in Egitto, dove il film è stato portato al Festival del Cairo, dove ha vinto tantissimi premi, quello della critica, quello del pubblico, ma durante una proiezione per il pubblico c'è stato un applauso lunghissimo e poi c'è stato il dibattito alla fine, l'incontro con il pubblico. E quello che mi ha stupito veramente è una signora con il velo, come tutte, la maggior parte delle donne presenti in sala, che dalle ultime file si è alzata e ha cominciato a gridare grazie, grazie, piangendo con una forza incredibile, grazie per, lo diceva in inglese, grazie per darci speranza, non sa che cosa ha fatto lei oggi per noi con questo film. E quindi a me questo mi ha fatto capire, mi ha colpito, mi ha fatto capire quanti i ridotti della libertà ci sono sempre nelle persone, e questo nessuna dittatura, nessuna, neanche in governi autoritari si riescono a perdere, le persone le conservano dentro di sé. Quindi per me era importante trasmettere questa sensazione, l'importanza della lotta interna che si scatena all'interno di un individuo, e questo riguarda tutti i dilemmi, tutte le situazioni in qualunque parte del mondo, quindi va ben al di là delle frontiere dell'Uruguay, ma un problema sono una lotta interiore che le persone possono vivere in Medio Oriente, in Europa, in qualunque altro posto del mondo dove le di fronte alle paure che minacciano oggi le persone. Le tue parole sull'odio mi hanno fatto tornare in mente una scena particolarmente significativa nel finale, quando c'è il saluto tra uno dei graduati che aveva un accanimento particolare verso queste tre persone e uno dei detenuti, che invece risponde con "le auguro una buona giornata". Mi ha fatto tornare in mente la vicenda umana e politica di Nelson Mandela, che nell'ottica di un superamento del conflitto e per il bene della comunità nel suo complesso ha governato con i suoi nemici e i suoi carcerieri, e questo a Mandela e a Mujica, pure a Pepe Mujica, ha portato una grande ammirazione popolare a livello internazionale. Sì, bueno, de hecho esa parte, decirte que cuando yo vi la cuando le mostré la película a Mujica, no estaba terminada, estaba terminado el montaje, estaba y se la quería mostrar. Ojo, ellos nunca interfirieron en nada, o sea, hubo libertad total, siempre, tanto Mujica como Rosenkopf y Huidobro fue, haz lo que a ti te inspire. Yo tuve libertad para, esta película no era en sí, o sea, obviamente partía de la base histórica de ellos, eventos que le pasaron, pero era libre de ser, me dieron esa libertad, esa confianza, y yo como tal la asumí con esa responsabilidad. Pero cuando Mujica ve la película, al salir me dice, ¿sabes qué, Álvaro? Yo creo que para mí lo más importante que tiene la película es esa frase que tú me acabas de mencionar. Y ahí comprendes el fenómeno tal que de responsabilidad con el hombre, un hombre que toma y la decisión de decir, independientemente de lo que me ha pasado, yo voy a decidir a concentrarme sobre el futuro. Y claro, yo le comento esto sobre todo sobre el final, que no quiero desvelar de cómo termina, y digo, los ojos para mí del actor, y él me dice, Álvaro, por suerte, la naturaleza es muy sabia, y nos ha puesto los ojos adelante y ninguno atrás. Sí, hay gente que ha querido, yo no perdono, Mujica dijo, yo no es que perdone, el problema es que hay cuentas que nadie te va a pagar. Y entonces yo de forma personal, porque cada uno hace como puede, he decidido invertir en algo sin esperar de cobrar ciertas cuentas. Hay gente que es como que ha invertido su tiempo en canalizar eso, y yo creo que le ha ido peor, pero esto es algo que cada uno es libre, no hay un adoctrinamiento al respecto, no es un profeta al respecto. Y yo creo que hay algo que tiene que ver con esta cosa que tenemos de ese equilibrio entre qué se gana y qué se pierde, y esa dificultad imposible de responder sin un marco cultural de cada uno y de una sociedad que se va gestando a la vez. ¿Qué cosas se deja en el camino? Hay heridas que son difíciles de cicatrizar. Y hay heridas que no cicatrizarán nunca y van a cicatrizar cuando ya no estemos aquí. Cuando hayan pasado 2-3 generaciones, que esto ya no les haya tocado vivirlo. Creo yo, pero eso lo creo yo, nada más, desde mi lugar de cineasta, no de político, ni de politólogo, ni de historiador. Sí, è interessante perché proprio quando ho fatto vedere a Mujica il film, non era ancora finito, ma insomma era stato montato e tutto, e premetto che loro non hanno interferito per niente nel processo creativo. Abbiamo avuto la massima libertà, nessuno dei tre mai voluto interferire. Diciamo che ovviamente il film partiva da una grossa base storica, io mi sentivo responsabile nei confronti di questa, ma per il resto massima libertà. Quindi Mujica, quando è uscito dalla visione, mi ha detto proprio la frase che tu hai sottolineato poco fa, mi ha detto penso che la cosa più importante del film sia questa frase. E infatti questa ti dà proprio il senso dell'enorme responsabilità, a prescindere o indipendentemente da tutto quello che è successo, io voglio guardare al futuro. Era questa la visione di Mujica, e penso che la natura abbia avuto una sua saggezza quando ci ha messo gli occhi davanti, gli occhi per guardare avanti e non occhi per guardare indietro. E infatti Mujica ha detto io non perdono, non è che io perdoni, però so che ci sono conti che nessuno mai ti potrà pagare, e quindi ho deciso di investire nel futuro senza preoccuparmi di riscuotere i conti vecchi rimasti in sospeso. Altri invece preferiscono fare altre scelte, cioè prima riscuotere o prima avere che vengano ripagati i loro conti prima di andare avanti, e magari hanno perso invece nel fare questa scelta. Comunque ognuno fa le sue scelte. Chi può dire che cos'è che si perde, che cos'è che uno guadagna? Dipende dalle circostanze individuali, personali, dai contesti della società in cui ci si ritrova. Chi può dire che cosa perdiamo lungo la strada? È vero che ci sono ferite che non si chiuderanno mai, o ferite che tarderanno molto tempo a cicatrizzarsi e chiudersi, e magari non è la persona che le ha vissute sulla sua pelle a vederle chiudersi, ma magari sono generazioni successive. Però questo è il mio pensiero personale, personalissimo, da cineasta e non da storico, da politico o da altro. Sulla base anche di questa vicenda storica, che segno lascia Mujica oggi nel paese? Todo depende de quién lo mire, ¿no? O sea, obviamente cuando entras en terreno desde lo político, es que depende mucho yo no tengo una respuesta como tal, porque es que en Uruguay es un país chico, son 3 millones y poco de habitantes, pero cada uno tiene en sí... Es que hay muchos Mujicas, ¿no? Hay un Mujica su estado en la cárcel, en donde pertenece al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, que está inspirado en gran parte en la Revolución Cubana. Hay un Mujica que es baleado, Mujica recibe 6 balas en el cuerpo, de hecho está casi muerto durante un día, es detenido 4 veces, escapa 2 veces de la cárcel, es una persona que está 12 años en aislamiento, y es un individuo que sale después y curiosamente termina siendo presidente gracias a la pura democracia. Y después está su gestión política, que eso ya es de otro mundo. Lo que pasa es que claro, es que es una historia casi más próxima a Ray Bradbury que a una historia real. Pero la verdad es que es así. Es increíble. La vida de este hombre es realmente increíble. Yo creo que es una vida que el hombre desarrolló a 180 kilómetros por hora. Es decir, me parece Vittorio Gassman en El Sorpaso. O sea, es decir, es como que... No sé. Digo, es un hombre que tiene tantas aristas. Y yo he de decirte que es tengo 800 anécdotas para contar. Que es como de golpe enfrentarte a un individuo que es, por momentos, esa mezcla... ¿Te acuerdas de esa famosa conversación entre Alejandro Magno y Diógenes? Este hombre representa el concepto de Diógenes a la perfección, aquel que no tiene nada y tiene todo a la vez. Son muchísimas las cosas que podría hablar de él. Che dire, dipende un po' dal punto di vista. Chiaramente quando si parla di politica non ci sono risposte univoche. L'Uruguay è un paese piccolo, 3 milioni e rotti di abitanti, e poi ci sono tanti, tanti Mujica. C'è il Mujica prima di essere militante, prima di finire in carcere, del movimento dei Tupamaros, che ha radici nella rivoluzione cubana. Poi c'è il Mujica che viene colpito da 6 proiettili ed è qua, diciamo, mezzo morto. Poi il Mujica che viene arrestato è incarcerato 4 volte, 2 volte che scappa di prigione, 12 anni in carcere, poi finisce per essere presidente dell'Uruguay proprio grazie al processo democratico, e poi c'è tutta la sua operato da presidente. Quindi diciamo che è una storia che si avvicina più alla fantascienza di Ray Bradbury che alla realtà pura. È una vita incredibile la sua, un uomo che ha vissuto a 180 km all'ora. È il Vittorio Gassman del Sorpasso. Ci sono tante, tante facce in lui. Potrei raccontarti centinaia di aneddoti. Non so se ti ricordi il famoso dialogo tra Alessandro Magno e Diogene. Bene, lui rappresenta proprio lui, Diogene, cioè l'uomo che ha tutto e non ha nulla. Io chiuderei con una considerazione. Questa radio si occupa da sempre di carcere, di prigionia, e mi torna anche vedendo il tuo film, perché questo spirito secondo me è ben presente nel tuo film, la massima di Voltaire che diceva che il grado di civiltà di un paese si vede dalla condizione delle sue carceri, e questo secondo me è uno spirito fortemente presente nel tuo film e fa luce sugli anni 70, la dittatura militare in Uruguay. Sì, è buonissima la frase di Voltaire che menzionas. No había pensado específicamente, pero es buenísima. Yo creo que hay que... Tengo que recordar que este caso fue extremadamente excepcional, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, no hay aislamiento como tal, y en este caso es que ellos fueron sacados del sistema. El sistema penitenciario, para bien o para mal, funciona desde algo institucionalizado. En la dictadura capturaron a 9 de estos líderes para llevarlos a esta, como digo, a otro círculo de Dante. Los bajaron a otro círculo del infierno, a una condena de aislamiento, de destruir su yo más interno. No refleja en realidad en sí las condiciones, sí refleja el grado de perversión, hasta dónde podemos llegar, donde puede llegar la barbarie de lo que llamamos nosotros civilización, ¿no? Porque quieras o no, Uruguay en sí es, yo sé que quedas muy lejos de Uruguay está muy emparentado con Italia por muchísimas cosas, entre otras cosas porque gran parte de la comunidad uruguaya está formada por italianos o descendientes de italianos, ¿no? O sea, inmigrantes. Pero somos muy, en cuanto a sociedad, muy cercanos. Por eso es como que impacta mucho ver que una sociedad, por más mal momento que pueda vivir, pueda llegar a estos extremos de barbarie, en donde un individuo es arrojado a ese grado de circunstancias. Pero el mundo de la cárcel en sí, yo por ejemplo nunca quise que fuera en sí, para mí una película carcelaria como tal, porque en la cárcel siempre hay o intento de fuga o grado de socialización, y esto era todo lo opuesto, no había ni fuga ni había capacidad de comunicación. Entonces era un debate realmente interno, era un descenso, era más cercano a un viaje de Conrad, un descenso del corazón de las tinieblas del individuo y enfrentarte a la locura, enfrentarte a la posibilidad de perder todo aquello que es considerado la existencia humana, la condición humana, y cómo haces y cómo hicieron estos hombres para agarrarse y volver, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí habla de las herramientas, no por citar a Voltaire, las herramientas que sí, la sociedad tiene dentro de sus individuos para aún subsistir en esas circunstancias. Sì, bellissima la citazione, la frase di Voltaire, però questo nel caso dell'Uruguay è stato veramente un caso eccezionale, perché nell'Uruguay non sono previste queste forme di isolamento carcerario. Diciamo che il sistema penitenziario funziona e ha sempre funzionato in Uruguay in un contesto istituzionale. Il problema è che in quel caso hanno preso queste persone, questi 9 detenuti, e li hanno, diciamo, tolti da quel sistema carcerario per spingerli in un circolo infernale volto a distruggere proprio il loro io interiore. Quindi hanno raggiunto una forma di barbarie della civiltà, perché se si consideri l'Uruguay è parente stretto dell'Italia, proprio ci sono molte similianze tra i nostri paesi, anche perché l'Uruguay è pieno di italiani o di discendenti di italiani, dei primi immigranti. Quindi ti colpisce moltissimo il fatto che il vedere in una società come quella dell'Uruguay che si sia arrivati a questi estremi e che si possa raggiungere questi picchi di barbarie. E generalmente il carcere lo vedo sempre contrassegnato da desiderio di fuga o anche una forte componente di socializzazione. Invece in questo caso non c'è stato nessuna delle due cose, né si cercava di evadere né c'era possibilità di socializzare, quindi era più simile a un viaggio alla Conrad, una discesa agli inferi, un addentrarsi nelle tenebre, nella follia, quando si perde tutto ciò che rappresenta e fa dell'uomo ciò che è, cioè quando si perdono tutti i tratti dell'esistenza umana. Piuttosto è proprio un'analisi, una possibilità di vedere in che modo l'essere umano possa sopravvivere quando tutto questo gli viene a mancare. Alvaro, è stato veramente un piacere, ancora complimenti per il film, speriamo di rivederci presto. Il piacere è mio, muchísimas gracias. Piacere mio, mille grazie. Con Malice Panada di Notorious Pictures per parlare del film City of Lies, L'ora della verità, di Brad Furman, che sarà al cinema da giovedì 10 gennaio. Alice, ben trovata. Ciao, ben trovata a te. Lo raccontiamo brevemente? Certo. Allora, City of Lies, L'ora della verità, è un thriller tratto da una storia vera. Vede protagonisti il più rinominato agli Oscar Johnny Depp e il premio Oscar Forest Whitaker. Johnny Depp interpreta Russell Poole, che è un ex detective che ha dedicato la sua vita ai casi di omicidio delle due star del rap, Tupac e Notorious Big, che a fine anni 90 diventarono una vera bomba mediatica. Whitaker è invece il reporter dell'ABC che a 20 anni di distanza spinge Poole a tornare su questo caso irrisolto. Il film è basato sul libro Labyrinth di Randall Sullivan, che aveva incontrato Russell Poole per un'intervista quando era redattore di Rolling Stone. Infatti nel 2001 ha scritto l'articolo su Rolling Stone, che ha avuto un successo esagerato, e da lì a un anno ha pubblicato il libro Labyrinth, che racconta proprio la teoria di Russell Poole e tutto quello che non si è mai potuto dire sul caso Notorious Big e Tupac. Ed è stato candidato anche al Pulitzer. Sì, esatto. Praticamente l'omicidio di questi due rapper conosciuti a livello internazionale non sono stati mai risolti questi casi, e sono legati, secondo questa indagine condotta dal detective, a degli agenti di Los Angeles. Los Angeles PD. Che erano comunque al soldo di gang. Sì. Non si sa purtroppo ancora la verità. Diciamo che questa teoria di Sullivan, che poi era appunto sostenuta da Russell Poole, vede una corruzione dilagante del Los Angeles PD, che in qualche modo era legato alla Death Row Records, a tutta la diatriba contro la East Coast e la West Coast, e tutti i soldi e tutto quello che gira poi intorno a questo fenomeno degli anni 90. Con dei killer assoldati proprio allo scopo. Sì, assolutamente sì. Alice, cosa ti ha convinto del film? Il film è molto particolare, nel senso che non è l'action che magari ci si aspetta da un film su due rapper, ma è un thriller più riflessivo. Investigativo. Sì, assolutamente, è un thriller investigativo e c'è un meraviglioso Forest Whitaker che in tutto il film cerca di snocciolare informazioni, di trovare la verità con un Johnny Depp che è decisamente in là con l'età e fa strano anche vederlo nei panni di questo ex detective. E si è ritrovato molto, ha studiato molto per questo ruolo e fa il suo effetto, diciamo. Sì. Che effetto ha suscitato negli Stati Uniti? In realtà negli Stati Uniti non esce. Ah, ecco. E al momento hanno rimandato l'uscita a data da definirsi, quindi in realtà saremo noi i primi al mondo a uscire questo giovedì. Quindi un film scomodo. Sì, esatto, però siamo molto contenti, abbiamo fatto una campagna molto bella, abbiamo fatto un'operazione con Gali, visto che comunque parliamo di rap, abbiamo cercato anche di arrivare un po' ai fan del rap, del trap italiano, quindi Gali ha doppiato la voce di Tupac nel film. Consideriamo che Tupac è nel film a livello documentaristico, quindi sì. Sono un paio di battute di repertorio, quindi è stato carino poter far doppiare a Gali questo personaggio, lui è stato molto contento e sta supportando molto bene l'uscita del film, il suo target sta ricevendo bene la notizia. In quante sale, Alice? Siamo in circa 200 sale, principalmente multisala provincia. Bene. E allora ricordiamo l'uscita del film City of Lies, L'ora della verità di Brad Furman, dal 10 gennaio al cinema. Un saluto e un ringraziamento ad Alice Panada di Notorious Pictures che lo distribuisce. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci voi. Presto. Grazie, a presto. Ciao, Luigi, ciao. Ciao.